alle 10, c'è qualcuno all'ascolto? Non me lo ricordo più. Questo apparecchio come ti sta andando? Tutto a posto? Sì, so che non lo sto usando. Sta andando benissimo, molto bene, bella radio. No, non il mio, il tuo. Ah, è il mio? Beh, quello me lo devi dire tu, io lo sto usando. Sì, per me va bene. Ma hai avuto anche occasione, almeno in ricezione, di trovarlo sotto? Sì, sì. Avevamo provato insieme anche, ti ricordi? Sui canali bassi. Sì, c'hai ragione. Però sempre qua era, capito? Io mi intendevo bassi, giù ai primi scalini. Sì, anche. Va bene dappertutto, non c'è problema. Va bene dappertutto, non c'è problema. È meglio così, è meglio così. Quando siamo tranquilli, speriamo la prossima settimana, facciamo qualche prova un po' più interessante, se sei disponibile, dato che tu sei l'unico in grado di gironzolare, almeno in ricezione qualche cosa mi puoi dire. Sì, sì, per me va bene. Se vuoi possiamo andare anche adesso. Iniziamo da 25.165. No, ma quella è banda nautica, capito? È banda nautica. No, già te lo dico io quando... Perché innanzitutto bisogna avere la frequenza non occupata. E poi vedere un po' se tutto va bene. Tutto lì. Noi operiamo su 24,9 spiccioli, quella lì è roba nostra. Poi c'è la 21, vabbè, a scendere. Lo so, lì, ma io lì non ci posso entrare. Lì ci vuole un qualcosa di più da parte mia. Cioè, potrei arrivarci, però non me lo consentono. Vabbè, infatti ti ho detto giusto l'ascolto, capito? Giusto per provare un po' la qualità dell'ascolto. No, non ti chiedo di certo di trasmettere. Ah beh, certo che no. Sì, vabbè, se quando vuoi non c'è problema. Io posso fare anche lì. Infatti stavamo con Atalinus, stavamo dicendo che siamo un po' preoccupati, o Giulio, ho detto sicuramente Giulio non sta entrando perché non c'è più quello che va portante, e lui si divertiva tanto e adesso manca quello lì, magari anche lui sta guardando le partite così. No, ma mi sembra che quando è un paio di giorni fa c'era, perché nell'intervallo della partita io ho acceso e c'era sempre quello che ce l'aveva con Natalino, ce l'aveva, per cui non... Già è sempre vivo. Giulio, è sempre vivo. E vabbè, sai, noi siamo gente molto paziente, quindi prima o poi... Beh, certo, d'altronde, che cosa ci vogliamo fare? Niente di niente, comunque, se a lui sta bene fare così, faccia pure, e che se ne frega. Vabbè, certo non è una cosa così. Comunque, noi proseguiamo per la nostra strada, Giulio, tanto non è che è solo una passione, quando è possibile ci divertiamo, se no già ne abbiamo altra roba. Credo proprio di sì. Ma poi possiamo anche allontanarci dove lui non si sogna nemmeno dove arrivarci, no, per cui non è un problema. Infatti oggi un'altra ricaldo giù. Anche oggi, stamattina sono dovuto pulire la macchina perché con la pioggerella che ha fatto ieri, con quella terra rossa che è stata dopo che è arrivata quella terra, ha fatto la macchina, anzi tutte le macchine, della strada sporca in una maniera incredibile. E stamattina gli ho dato la lavata, per cui va bene così. Adesso ci sarebbe l'altra anche da lavare. Ma l'altra era occupata, era impegnata con mia figlia stamattina, per cui non ho potuto pulire. Ma comunque avremo tempo anche per quello. Può darsi domani magari, non lo so. Ma io lascio come, tanto ho detto che sta arrivando roba grossa dalla Spagna, è abbastanza consistente, quindi aspettiamo gli eventi. Ah beh, quello sì, tanto il discorso è sempre quello, più la pulisci e più si sporca, si rinnova sempre, lo sporco si rinnova sempre. Ah beh sì, infatti dovremmo inventare le cose che si puliscono da sole, così ci eviteremo una grossa fatica e una grossa perdita di tempo. Vabbè, ma io faccio anche fretta, perché io ce l'ho vicino qui, vado lì nella zona Fredaniella, c'è il lavaggista con 10 euro, esternamente la pulisco tranquillamente, dentro già è bella luce, bella pulita, tutta in ordine, ma se dovesse piovere su quella terra di nuovo, altri 10 euro e la pulisco e non c'è problema. Io ce l'ho qua anche l'autolavaggio a casa, c'ho tante prese d'acqua, il problema è che l'acqua poi al posto di pulire la macchina la sporca, nonostante ci abbiamo i filtri. Ehi, caspita, andiamo bene. No, io vado alla piazzetta lì di Fredaniella, come si chiama, dove c'è Mauri, in quella bagista lì. Ci vado lì, 10 minuti, me la lavo e me la asciuga anche, perché automaticamente no, con lo spazzolone no, non c'è problema. Esce lucida. Sì. Io neanche quello faccio perché ho le antenne e quindi perdo più tempo a staccare le antenne che lavare la macchina. Ma io sto con l'antenna dell'autoradio e basta, niente di più. Piego gli secchietti e poi ci pensa lo spazzolone a fare il tutto. 10 euro è una miseria, per cui va bene così. Non ne vale la pena nemmeno mettersi alla barra da sé, perché quella fatica che ci vuole poi con questo caldo specialmente, che te lo fa fare? Invece vado lì, 10 euro ed è pulita. No, io abbiamo anche l'idro, c'è anche l'idropulitrice a pressione, che ne toglie tutto quanto, solo che poi te la risporcano. Poi sai, mi sono fatto la convinzione che se non ho dato, anche se è nuova, ma se è sporca non si appoggia nessuno, neanche la guardano, risulta tipo anonima, capito? Quello già è vero, in un certo senso è un po' una linea di difesa, almeno per certi aspetti, ma se arriva uno stosso, chiude la macchina, si appoggia lo stesso. Quello sì, purtroppo. E comunque, avevo detto, ma mi si era rotta la telecamera posteriore. L'ho subito sostituita, cioè o meglio sostituita, e ho tolto tutto, quell'impiatto lì della Sony, sarà pure una buona radio ma non serve a niente, mi hanno sparato 250 euro solo, il prezzo per me che ero cliente, capito, una telecamera, quella che quando muovi lo sterzo si muove anche la telecamera, una mezza cazzata. E quindi si era graffiata proprio durante la faccia della macchina, no? Perché sicuramente sbatteva magari qualcosa, le ha fregato la lente e quindi si vedeva tutta offuscata. Ho messo una delle mie microcamere che costa una quindicina di euro e si vede anche meglio. Adesso ce ne sono, sai quante ce ne sono tre camere? In tutto ce ne sono tre. Caspita! Indubbiamente i pezzi di ricambio per quella macchina lì costano, Costano. Beh, d'altronde funziona così. Lo sappiamo, no? La macchina più importante e più costano i pezzi di ricambio e le riparazioni soprattutto. Per cui bisogna stare molto attenti. Se vogliamo le cose belle dobbiamo essere anche disponibili a pagare quello che poi ci vuole per riparare. Purtroppo è così. E vabbè, comunque. Meglio quella la soddisfazione che un'altra peggiore, o Giofra? Ah, beh sì, quello non c'è dubbio. No, anzi, mi sono sbagliato, ce ne sono quattro, perché due sono del controllo stradale, davanti e dietro, che mi sono stati utili anche quando qualcuno voleva fare il furbo. Le altre sono altre due per le manovre, una che si accende davanti, no? Quando a richiesta, quando vuoi vedere il traffico anche, o quando sei sullo sterrato e vuoi vedere le condizioni della strada, no? Proprio a piano stradale, perché sotto il parafango addirittura. E l'altra, anzi no, all'interno del coso della mascherina, così è protetta. L'altra è dietro con la retromarcia, la classica, con le righe e tutto. Le altre due invece registrano contemporaneamente tutto quello che accade intorno alla macchina. Come dove si trova? Lì, un po' vivo di quello non me ne sono mai accorto. Ah, poi addirittura vedere con la telecamera il fondo stradale. Ma quello cosa ha fatto? Un'applicazione tua o è di serie così? Se è di serie anche nella mia è così. No. Te avrebbero fatto pagare chissà quanto quelli lì, quei signori lì, infatti glielo ho pure detto. No, è tutta roba opzionale che ci ho messo io, opzionale nel senso che me la sono comprata e installata, perché poi non lo so se c'è gente che qua è in grado di fare quelle installazioni, capito? Perché la macchina è tutta, se tu l'apri, io l'ho aperta già per benino, ed è tutto un ammasso di cavi che neanche ti immagini, tante cose inutili poi che non servono a niente, predisposizioni, guarda, ti dirò, la mia autoradio vede tutti i video possibili e immaginabili, c'ha roba di tre carte di navigazione con relativo GPS, cosa che la radio in dotazione non c'ha, la mia è la più cara, quella come autoradio, non so se tu c'hai la Sync 3. Questa qua ti parla anche la radio volendo, c'è anche comandi vocali, poi c'ha tante altre funzioni. E quella là l'ho presa, l'ho staccata, tutta quanta, proprio tutta staccata, l'ho messo dentro una scatola, quando la verso la ripiazzo. Ah, ho capito. No, la mia parla quando inserisco il video per la strada, il percorso stradale che io sto percorrendo, quello quando arrivi per dire ad una curva un po' prima, gira a destra, gira a sinistra, tutte queste cose qua, sì, queste funzioni ce l'ha, oppure strada, che so io, strada numero, strada provinciale, numero 200, eccetera, eccetera, queste cose già le dici. Ma tu evidentemente hai fatto altre applicazioni super, no, quelli no, si sarebbe poi a uscire fuori testa per seguirli tutti, no, assolutamente così non lo fa. Eh beh, sì, anche perché poi ci devi avere una struttura, coraggio di metterci mano. Io sono di quelli che compra la macchina, la prima fase è bucarle la capota subito, e la capota integra, una volta uscita dal concessionario, credo che l'indomani avesse già il buco, giusto per farti capire. E poi tutti gli accessori opzionali. Anche sull'altra macchina avevo le stesse cose, poi le tutte tolte, tutto sistemato, e quindi anche l'altra era super attrezzata. Ti fanno pagare certi gadget, tu figurati che volevo prendere la Suzuki, perché abbiamo anche le Suzuki, e mi hanno sconsigliato di prendere quella a fare per i pedoni, no? Perché anche se te ne passa avanti qualche cosa d'improvviso, la macchina inchioda e c'è il rischio che ti sbatti la testa al vetro se non c'ha le cinture. Sì, e beh, quello sì, lo so, ma quelle ci sono certe macchine che ce l'hanno anche di serie, ad esempio ce l'ha un mio amico, ce l'ha, adesso mi ricordo che marca è quella macchina. Se tu sei, per dire, non so, dietro un'altra macchina e quello improvvisamente è inchioda, e tu magari sei distratto, la macchina automaticamente inchioda da sé. Questo sì, lo so, ci sono certe macchine che ce l'hanno di serie. No, ma è meglio stare sempre con gli occhi belli aperti, perché è troppo rischioso oggi, e soprattutto bisogna andare sempre molto piano, che è meglio, guarda, non ci sono dubbi. Poi ci sono tante altre funzioni che ovviamente fanno comodo, però a un certo punto se ne possono anche fare a meno, perlomeno io penso così. Io sto guidando 54 anni, mi sembra, fate conto, dal 1966 che ho la patente, fate conto quanti anni sono passati, 54, boh, 55, non lo so preciso, siamo lì insomma. Sì, ma infatti molte si possono dire, ecco, molte di quelle cose che ammettono sono proprio già bidure, gadget praticamente. Io posso capire se sono veramente utili, però loro le mettono non tanto perché siano utili, ma per farti alzare il prezzo, capito? Guarda, la cosa utile che sto trovando, siccome ogni tanto mi fa male la caviglia o il piede, è una cosa automatica, no? Tu le metti la velocità e lei va da sola la macchina, non fa bisogno di stare a premere l'acceleratore, eccetera, si mantiene quella velocità costante e consuma anche di meno, ti dico, molto di meno. Sì, beh, quello sì, e per quello c'è anche, poi per dire che so io, avere un limite massimo di velocità senza superarlo. Inserisci il tasto giusto e arriva con la velocità e non va oltre, per dire. Adesso quella c'era anche la mia, l'altra macchina piccola, la C3, non c'è problema, per cui, e poi tra l'altro devo anche portarla a revisionare proprio entro questo mese, perché mi scade il giorno 28 o mi scade la revisione. Infatti Fiori mi ha già avvisato tramite lettera, perché mi avvisano sempre, io la porto sempre lì da Fiori, che è un'officina come si deve, e dunque vado lì, prendo l'appuntamento, ma l'appuntamento si tratta dalla mattina alla sera, oppure dal massimo dalla mattina all'indomani mattina stesso, per cui è una cosa molto veloce, non c'è problema. Sì, lo conosco, Danilo. No, io invece vado dietro da uno che me l'ha fatto proprio, arrivato e fatto. Faccio molto prima, non devo fare attese, sempre di aprire Danietta. Sì, ma quello lo posso fare anche su io. Mi da Fiori potrebbe capitare magari che uno all'appuntamento non arriva, allora c'è l'appuntamento successivo e tu puoi sfruttare l'intermezzo lì, puoi sfruttare, perché intanto quello non è arrivato, peggio per lui. Oppure andare direttamente all'officina che c'è su a Monte Rosello, arrivi lì e ti dici aspetta un attimo, subito, scusa la tosse, e subito ti manda via nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, lì è proprio velocissimo. Però naturalmente non si può fare confronto con l'officina di Fiori fatta lì, la revisione con quella fatta da quell'altra officina, tu mi dirai ma è uguale, perché intanto i dati arrivano, partono sempre per Roma, quello è vero, però fatta da una officina di un certo prestigio è già diverso, perlomeno io la penso così. Sì, tanto anche il prezzo è uguale, non è che si cambi granché. Niente, tutto lì. Tu cosa c'hai? Quell'autoradio con lo schermo grande, sì, quella lì è. Sì, quella con lo schermo grande, sì. Poi ti dirò di più, tu mi dici, hai ragione, hai detto bene, il prezzo intanto per la revisione è sempre lo stesso. Ma lì invece la Fiori addirittura ci guadagni, perché tutte le volte che sono andato a fare la revisione un regalino me l'hanno fatto. Per cui no, o i cavi di scorta per la batteria, o magari che so io un litro di olio, motore, oppure l'ultima volta che sono andato addirittura mi hanno dato 10 euro di benzina in quel fornitore che c'è sulla strada per Alghero dopo il sottopassaggio. Santa Maria, dai, è più avanti, c'è un rifornitore sulla destra scendendo verso Alghero, e lì mi hanno mandato lì, mi hanno dato 10 euro di benzina. Questo, oltre a avere una revisione con i controcavoli, allo stesso tempo anche un piccolo regalino, ma non è quello che mi incanta, non mi dà assolutamente no. Io ci vado perché l'officina è un'officina come si deve, proprio alla grande. In caso di necessità c'è anche modo di fare qualche piccola riparazione, lì al momento stesso, insomma diciamo che è tutta un'altra cosa, è un'altra organizzazione. Ma tanto a noi, credo ci tocchi nel 22, se non ricordo male. Dunque, il 28, io ho mercato il 28, quasi ci vado domani mattina, così prendo l'appuntamento e così anche quello è fatto. Tanto domani mattina cosa avete da fare? Niente, come oggi, niente di me. Come oggi, non avevo niente da fare oggi e infatti mi sono deciso di andare a lavare la macchina e casomai domani mattina vado, prenoto e così facciamo anche quello, così rimani, almeno rimaniamo sempre in perfetta regola. Ma di quale Giulio? Dalla Ford? Cioè da così tanto tempo, perché la prima revisione è dopo 5 anni. No, sto parlando dell'altra macchina piccola, la C3, sto parlando di quella. Io, quella è nuova, se tu la vedi quella macchina è da salone ancora, perché è nuova fiammante, però ha 12 anni di vita, ti puoi immaginare, sai quanti chilometri ha percorso? 42.000 chilometri in 12 anni, poi ti puoi rendere conto di come può essere una macchina trattata come si deve, insomma, ecco. Sì, certo, non è come la mia, che ne ha già quasi 23.000 ed è dorme all'aperto, all'intemperie, oggi l'ho dovuta aprire in anticipo prima di sedermi, perché c'erano 40 gradi dentro, e quindi ti puoi immaginare. Così è. Lo so, purtroppo così. No, l'altra da nuovo ne ha 13.000, dai, con una cosa del genere. 13.000 qualcosina, ma niente di più. Per cui va bene. Quella cammina di più, cammina. Anche perché quella la usa mia figlia molto, praticamente, perché a lei occorre per il lavoro, no? Lei va anche lontano, tutta la Sardegna praticamente. E poi un giorno sì e un giorno no viaggia di sicuro, un giorno sì e un giorno no va fuori Sassari, per cui i chilometri è chiaro che lì li percorri con quella, poi quella più tranquilla, anche perché perché lì in certi punti deve passare con una macchina che ha la pedana più alta, eccetera eccetera. Anche se aveva prima la Ford normale, aveva e ci andava lo stesso, non c'era problema. Quella l'ha tenuta tanti anni, quella mi sembra che aveva, quando l'abbiamo cambiata, aveva mi sembra roba di 200.000 km, una cosa del genere. E questa invece ha appena 13.000 km, quella che usa lì, solo perché praticamente c'era quest'anno un anno e mezzo di pandemia, se no avrebbe avuto chissà quanti chilometri già. Anche la mia, forse. Io ogni giorno percorro 16 chilometri, tutti i giorni, e quindi però durante questa pandemia l'uso della macchina è proprio sceso ai minimi termini, quindi è rimasta lì, ferma, già non si è lamentata, dai. E poi, insomma, so se è notato adesso che le cose sono leggermente addrizzate, ne hanno subito approfittato per aumentare la benzina. Vedrai quanti aumenti fanno adesso per recuperare quello che hanno perso, come al solito. Sicuramente un ritocchino lo faranno per il costo della benzina. Sì, beh, certo. No, quella adesso magari si incomincia di nuovo a viaggiare abbastanza, ripeto, un giorno sì, un giorno no, percorre, allora sono 20, diciamo all'incirca 50 km, un giorno sì, un giorno no, 50 km all'incirca. Alle volte invece magari ne può fare anche 200, perché magari che so io va a Oristano e anche oltre, oppure va a Olbia, oppure va a Bolo, oppure a Ozieri, insomma dove insegna, eccetera eccetera. Per cui vede bene che adesso iniziano i grandi percorsi. Avete considerato che la pandemia è a un livello buono, e cioè basso, per così dire, si intende buono, si intende quando è basso, e allora sarà sicuramente più usata la macchina. Speriamo che non ci facciano sorprese, se no veramente è una cosa, tornare come prima è veramente triste la cosa, ma speriamo che ci vada bene. Sono cose quelle che nessuno sa come deve finire. Sì, la macchina come macchina è buona, per carità. Io ci ho avuto qualche problema perché non ho fatto tutte i miei calcoli. La bicicletta poi alla fine c'entra pelo proprio, infatti c'è anche il pantalone interno un po' graffiato, però a un certo punto ecco, chi se ne frega, tanto ho fatto quei chilometri, io la verso la macchina. I consumi vanno male, per essere è molto pesante come macchina, c'è da dire, nonostante sia un'utilitaria anche quella, però i consumi sono un po' esagerati rispetto a quello che dice la casa dice, come al solito dicono tante bugie, e quindi sull'uso pratico, se uno fa i calcoli bene, si accorge che succhia un bel. Beh, la casa ti dà i valori del consumo e se ne dà sul rullo, per cui è chiaro che poi sul percorso stradale cambia tutto, soprattutto nell'ambito cittadino, e questo, il discorso è questo, per cui è ovvio che le differenze non sono mai attendibili, quelle che ti danno, che ti dicono quelle della casa, nella maniera più assoluta. Poi dipende anche dal piede, se il piede viene schiacciato troppo, anche quello. Però io ancora non ho capito una cosa, ragazzi, ho sempre qualche dubbio. Ma quanti pistoni ha? 3 pistoni ha o 4 questa macchina? Ma non è che ancora non ho avuto modo nemmeno di leggermi il libretto. tre, boh, non lo so. Mi è sembrato di sentire un break. Tre cilindri, Giulio, tre cilindri, se quella benzina, tre cilindri. Il diesel, non lo so, quello forse ne ha quattro. C'è un break avanti, break. Buonasera, Gianfranco e Giulio. Io non ne ho fatto, comunque buonasera a tutti. Ciao Gianni, io non avevo sentito niente, la verità. Sì, no, ma io l'unica cosa che trovo, però se sai, una macchina sportiva, non a caso è chiamata EcoSport o Gianfranco. L'unica cosa che ritrovo, che non mi va molto, però ripeto, è giusto che sia così, è un po' rigida, ma per il resto è brillante, velocissima, frena bene, le curve si affrontano in maniera ristretta, no, di quanto a quello non ho niente da dire. Trovo solamente che in strada magari non troppo pulisce, la trovo un po' rigida, però ripeto, si sa, spiegato il tutto, visto e considerato che è una macchina che a livello sportivo anche, se vogliamo, dai. Ok, ciao Gianni, avanti. Vabbè, mentre vi ascoltavo io mi sono pulito dentro tutta la macchina, perché l'ho pulita fuori e dentro me la sono fatta io, perché non me la fanno mai come voglio io. Io uso pennellino, tutto quanto, pulisco tutte le senature eccetera, sono un po' pignolo a pulirla. E me ne sono andato al quadrato, ero bello tranquillo, lo spazio c'era, per cui mentre vi ascoltavo l'ho tutta pulita e profumata. Hai fatto bene. Io l'ho pulita stamattina, l'ho lavata stamattina, perché con tutta quella terra che ha piovuto ieri me l'aveva tutta quanta fatta rossa. Poi mi dà fastidio quando si infiltra nelle fessure delle guarnizioni, no? Non lo posso vedere quel rossiccio di quella terra lì, per carità, quella terra africana che arriva qua anche, accidentaccio. Va bene, dai, avanti Gianfra. Sì, ciao Gianni. Se me lo dicevi ti portavo anche la mia, e di lì ho il pennellino, già ti divertivi. Ma io l'ho fatto più che altro per passare il tempo e anche perché non potevo vedere la macchina in quello stato, che era pietoso. E niente, adesso me l'ha pulita e profumata. No Gianfra, cazzo, guarda, lo faccio io perché sono pignolo, se no me l'avrei fatto fare dal lavaggista. Io sono pignolo e mi faccio tutte le parti col pennellino, dove entra l'aria, tutto quanto, la pulisco nelle insenature eccetera. Oh Giulio, tu non sai il danno che fa quella terra della pioggia del deserto. Se si mette nei motorini dell'alzavetro fa un casino nero, ti spacca tutto, perché adesso gli ingranaggi sono fatti in plastica, te li inceppa, guarda, un casino fa, a volte non sale il vetro, insomma è una rottura di scatola. L'ha fatto l'amico mio, non gli saliva più il vetro, ha dato al carrozziere, c'era questa roba qua in mezzo, si era impastata proprio. Sì, beh certo, ma è così, in effetti, lo so già, è appunto quello che mi dà fastidio, perché sporca tutte le guarnizioni, però diciamo che già, adesso già è pulita, speriamo che non piova più con quella terriccio lì, perché è una porcheria veramente. Lo so, perché quella lì è una specie di argilla o Gianni, e quando poi si asciuga si pietrifica ed ecco che ti blocca tutti i comandi. Vai Gianfra. Sì, un piccolo suggerimento per esperienza fatta, perché molti quando sentono queste cose si strusciano le mani, no? Bisogna ricordarsi che quando succedono quegli eventi lì, tipo qualche blocco su queste macchine, qualche cosa di strano, a me mi era capitato con quella che avevo prima, la nuova, che praticamente non alzava più un finestrino, si era bloccato, l'ho portato in concessionario, sì, ma qua, ma là, eccetera, dobbiamo cambiare tutto l'impianto elettrico, tutto qua. Ho detto sì, come no? Certo, già l'ho la porta, però adesso la devo usare. Sto sono andato, ne ho staccato, non ho sentito la batteria, ho aspettato che si rastassero tutti i sistemi di centralina, dopodiché ho collegato, da lì in poi la macchina ha funzionato perfettamente. Questo è per dire, poi mi hanno chiamato dalla fabbrica, diciamo, perché fanno sempre le telefonate così, mi hanno chiesto un parere su come sarà comportata la manutenzione, e io ho detto, guardate, la vostra assistenza forse deve studiare un po' di più, perché praticamente ho fatto la storia, è successo questo e quest'altro, volevano tenermi la macchina minimo una settimana smontando la del tutto, e invece basta attaccare queste cose. Ah sì, ci scusiamo, adesso le faremo montare anche noi, capito giù come funziona? Sì, lo so. No, io la verità, anche per il primo tagliando non la porterò alla concessionaria, assolutamente no. Vado dal mio meccanico di fiducia, lui sa come deve fare per tutto, per cui non c'è problema, anche perché è un meccanico che è sempre aggiornatissimo, tutte le volte che ci sono delle lezioni da seguire, lui prende l'aereo, va e le segue a livello di qualsiasi marca di macchine, per cui non c'è problema. Poi è attrezzatissimo, non c'è problema, non è uno di quei meccanici che è rimasto indietro, sono come quei meccanici anziani di una volta che avevano quattro chiavi e lavoravano così. No, lui ha tutto quello che serve. Ha un difetto la macchina, ha una apparecchiatura, arriva, apri la macchina, si siede, attacca questo strumentino, e quello con la massima precisione ti dice qual è il difetto, e lui ci va a colpo sicuro. No, Franco è veramente preparato, non c'è problema. Avanti Gianni. Sì, è vero, fa il test alla macchina, gli attacca quell'aggeggio e sa qual è il difetto sicuramente, ma poi è bravo anche lavorando, e non è solo l'attrezzatura, è bravo anche lui. Tu pensa che una volta alle conce ho fatto cambiare i freni di dietro della macchina, cazzo, tiro il freno a mano, vado a buttarci la molestia, vedo la macchina scendendo, vado correndo, ce l'ho fatta meno male a fermarla in tempo. Fatto sta che cosa aveva fatto questo disgraziato, mi aveva messo i freni al rovescio, l'ho portato a Franco, dice come faceva a frenare, se l'ha messo al rovescio, ma io sono meccanico, no, io non voglio andare contro i colleghi, ma questo non è un collega, non è possibile che uno sappia, ti piazzi e lascia al rovescio. Figurati, si può immaginare che la data di meccanico può essere quello, no, non bisogna andare da questi pellegrini, ci sono meccanici che sono molto, ma molto pellegrini in fatto di mestiere, per cui è meglio andare anche pagando qualcosina in più, però almeno si è sicuro che il lavoro se lo fanno. E poi quello che ha di buono, Franco, tu Gianni l'avrai notato, guarda già a Franco, tu vai lì e qualsiasi giorno, quando vuoi tu, e lo vedi sempre bello pulito, la sua tuta è sempre bella, fiammante, pulita, non come certi meccanici tutti sporchi, tutti cagati addosso, ma quando mai un meccanico deve comportarsi così? Ci siede dentro la macchina e rovini la tappezzeria, non va bene così. Lui queste cose ci tiene, è delicato, una persona pulita, una persona precisa. E poi ripeto, oltre che è giovane, perché è giovane, ancora molto giovane Franco, ma non sa lavorare veramente. Avanti Gianfra. Sì, mi è sembrato che c'era qualcuno che volesse entrare. Avanti, se c'è qualcuno che vuole entrare. No, niente. Sì, c'è sempre, in pasticcione c'è sempre in giro, soprattutto con quelli che vogliono fare subito soldi, no? Quindi danno anche delle fregature, oltre a danneggiare, a fare danni, se ne sentono in giro di queste cose, voi, gente che proprio non ha niente da fare che andare a rovinare le cose. Comunque, cosa ti volevo dire Giulio? Sì, è una macchina un pochettino sotto quell'aspetto disgraziata, né? Perché c'ha tutti i pezzi che praticamente non si trovano come tradizione di quella marca. E praticamente devi sempre ricorrere in una maniera o nell'altra ai pezzi originali. E quello, tra virgolette, può essere considerato anche un difetto, ecco, perché se tu la, io l'ho tutta fatta a pezzi più o meno, e ho notato che molta produzione è fatta in Messico, ecco, quindi chissà dove ce li hanno i magazzini in Europa. L'altra parte credo che sia la fabbrica, non ricordo se c'è una in Germania, una in Romania, adesso non me lo ricordo di preciso. Ok, beh certo, no, io la verità, a parte il fatto che non ne so molto di meccanica, perlomeno della meccanica di oggi, della meccanica di prima sì, io avevo fatto anche il passo addirittura, ma al 1200 D che avevo, ma allora ero giovane, avevo modo e lo spazio dove farlo, per cui non c'era problema, avevo proprio fatto il ripasso al motore, avevo sostituito anche i pistoni, avevo messo i pistoni a tassello e avevano una compressione straordinaria e andava che era una meraviglia quella macchina, era 1100 D, quello col cambio al volante, tanto per intenderci, non so se l'hai conosciuto, ma suppongo di sì. Ma oggi come oggi non mi azzarderei assolutamente a toccarla, perché è molto complicata, non ci posso nemmeno di entrare le mani, se non hai l'attrezzatura specifica per fare questi lavori uno si perde, e poi ci vuole soprattutto il mestiere, mi sembra che mi permetta di fare questo, ma non ci penso proprio, non ci penso assolutamente, pago e basta. E lo faccio fare da chi lo sa fare. Avanti Gianni. Fatti, non conviene, poi magari fai qualche errore, può capitare anche fai da te, di fare qualche errore magari paghi di più pure. Sì, perché può succedere così, ma oggi come oggi, le macchine di oggi sono complicatissime, non erano come le macchine di allora, sai, sapete quante volte mi sono fatto il motorino d'avviamento, perché era la prima macchina, l'avevo tenuta roba di 16 anni, ti puoi immaginare, tanto è vero, mi ero stancato, proprio stancato nel senso della parola, e l'avevo portata poi alla rottamazione da Albano, via Gaffedreta, dietro il negozio dove c'è adesso il genere alimentare, già l'hai conosciuto Gianni, lì c'era Albano, il rottamatore, l'avevo lasciata lì, ma solo esclusivamente perché ero proprio stancato, e avevo preso allora il 128 mi sembra, dopo quello avevo preso il 128, poi a seguire il 124, poi a seguire ancora la parte sopra il Cadet, insomma ne ho girato, eccetera eccetera, ma erano tutte macchine per la quale io ci potevo mettere anche le mani, per quel pochino di intendimento che ho in fatto di meccanica, ma oggi come oggi no, non è possibile, almeno per me non è possibile, vai. Oggi c'è sì la meccanica, però se fai termini di paragone poi alla fine l'elettronica la vince, su quell'elettrica vince direttamente l'elettronica meccanica, ma quelle non le puoi neanche toccare perché sono tutte super computerizzate, c'hanno cose di sono una cosa pazzesca, quindi no, non so neanche chi le possa riparare in caso, noi ci siamo molto da fare perché ripeto alla fine il motore elettrico, ma è la parte elettronica che è estremamente complessa. Quella lì poi, siccome ti dicevo che l'ho smontata, ci è capita per tutto, c'ha sensori da tutte le parti che non sa neanche a quello che servono, probabilmente in caso d'urto sono quelli che servono all'azionamento degli airbag, quindi bisogna stare anche molto attenti. Ma ce n'è uno dove c'è la serratura, cioè dove c'è il portellone sotto un punto dove non ci dovrebbe essere niente, sarà un sensore d'urto, poi ne ha altri all'interno tutti particolari, mondo. Eh beh sì, sì, perché uno non essendo a conoscenza di tutti questi particolari, soprattutto di come devi usare, trattare, non è meglio non pensarci proprio. Fa pazienza, vai, fare il meccanico quando c'è bisogno e te lo fa lui, e almeno hai un minimo di garanzia, ce l'hai, sempre che tu vada ad un meccanico serio, un meccanico che sa lavorare. Se poi vai da un pellegrino, come tanti ce ne sono a Sassari, per carità, senza stare lì a criticare nessuno, però vicino al meccanico dove vado io ce n'è un altro che io non gli affiderei nemmeno la bicicletta da aggiustare, non la macchina, a Caledai. Va bene, perché quello anziché aggiornarsi tutte le volte che ci sono delle scuole di aggiornamento eccetera, quello ad aggiornarsi va sempre al bar che c'è all'angolo lì, o quello dell'altra parte, dell'altro angolo, per cui ti puoi immaginare anche le belle messe. Avanti Gianni. No, io la porto da Franco sempre, mi trovo bene lì. Te l'ho spiegato che alla Fiat ho pagato per le stesse cose 350 euro di tagliando. Da Franco ho pagato 150 euro e mi ha fatto le stesse identiche cose, perché c'è scritto cambio olio, cambio filtro olio, cambio del filtro dell'aria, controllo candele, eccetera, eccetera. E tutte queste cose me le hanno fatte l'altra volta la Fiat e mi hanno fatto pagare il doppio. Sì, ma lo so già, è così, lo so. Io mi servo da Franco da tantissimi anni, ma a parte il fatto che anche lui era un mio cliente, ma non solamente lui, anche il padre, la madre, io tutto quello che c'è a casa della madre, per quanto riguarda il legno, gliel'ho fatto io. Porte, portone, finestre, mobiletti, mobili di ogni genere, perché si può immaginare, no? Tu pensa che anche l'ufficio che c'è su da Franco gliel'ho fatto io, tu lo sai, no? Franco ha una scala in ferro a chiocciola che sale su, no? Quando ad esempio deve fare una fattura o una cosa, sale su, tu aspetti giù e lui ti prepara la fattura e te la porta giù. E giù l'ufficietto gliel'ho fatto io, tanto per dirti come Franco, no? Ho detto Giulio, mi accorgo questo lavoro così e così, va bene. E come vuoi fare? Lo voglio fare così e così, va bene, d'accordo. Non è che mi ha chiesto ma quanto vuoi, quanto ti devo dare per fare questo, nulla, nulla, nulla di nulla. Ci trattiamo in questa maniera e così faccio io da lui. Quando lo porto lavoro, non è che gli chiedo ma quanto mi prende a fare quello, che me ne frega, quello che mi chiede le do. E così ho fatto io quando ho fatto lavoro. Poi gli ho chiesto la cifra che gli ho chiesto, non ha aperto di bocca, niente, me le ha date addirittura con tanti soldi, penso un po', ce li aveva già pronti, proprio per pagare il lavoro che gli avevo fatto già, no? In quanto a quello è una persona troppo seria, veramente, giovane ma molto seria. Avanti Gianfranco. Infatti poi a me sono capitate concessionarie a cui veramente portavamo tante macchine che ne combinavano veramente cose oscene, ma ho notato soprattutto che queste cose capitavano quando veniva a mancare il capo, no? Il capo inteso, siccome erano generazioni di molto note a Sassari di concessionarie, mancava il padre, la prendevano i figli e veramente succedeva un disastro di proporzioni veramente epiche, perché disonestà, clienti che sbattevano le porte. A me è capitato vedere ragazze piangere perché avevano preso la macchina e non uscivano più, e queste sono note con concessione della Fiat. Anche a me era capitato con una nostra auto con appunto ritirata e non le funzionavano già, le sportelli si chiudevano da soli, che c'erano i primi sistemi di chiusura centralizzata, dopodiché l'abbiamo disattivata ad auto nuova praticamente, dove chiudere le sportelli a chiave, cioè cose, guarda, dell'altro mondo, gente che ci portava, che ne so, l'appunto per avere un alternatore un anno, ha fatto prima versare la macchina da un altro concessionario. noi siamo andati in quel paese, guarda. Sì, sì, già fa, ma è così. Ma adesso che mi è venuto in mente un particolare da Fiat, che io tanti anni fa avevo la 850 berlina, quella celeste era verniciata qualche lessino che faceva da 850 all'ora, e l'avevo portata alla Fiat per fare italiano, no? Dopo due giorni me l'hanno restituita la macchina, ho pagato quello che mi hanno detto e tutto quanto, bene, sono andato. Sono passati una quindicina di giorni, hanno telefonato a casa di andare, che avevano qualcosa da comunicarmi. Fanno lì, sai cosa volevano? Hanno voluto altri soldi, perché dicono, mi avevano detto che il prezzo che mi avevano fatto per il coso non era quello, ma era un altro, e dunque ho dovuto aggiungere dei soldi, ma parecchimi, altrettanti quanto mi avevano dato prima, per dirti, no. E questo è la Fiat, questa è la Fiat, ti puoi immaginare, sto parlando di tanti anni fa, per dirti come funzionava anche lì. Che tra l'altro arrivavi lì, mettevi la macchina e tu non la vedevi più, te la portavano dentro e tu non la vedevi più, non sapevi nemmeno che l'aveva portata dentro. Arrivava l'operaio o chi era e te la portava via, e tu te la restituivano dopo due giorni, ma l'avevano restituita, e poi mi hanno telefonato per 15 giorni che hanno voluto altri soldi. Li hanno dovuti dare a questi disonesti. Per me quella volta sono stati molto disonesti. Avanti Gianni. Mi stava aggiungendo il liquido del tergicristallo, già che c'ero fermo, me l'ho controllato, che ho controllato tutti i liquidi, là, così a posto, fa tutto bene, tranne quello del tergicristallo che era un po' usurato, dai, io gli ho fatto il rabocco. Anche io l'ho fatto stamattina, anche se ce ne ha voluto pochissimo, no, non più di un bicchiere e mezzo, ma gliel'ho fatto anch'io. Ieri invece l'ho fatto il rabocco alla macchina nuova, alla EcoSport, alla Ford EcoSport, di fianco, cioè parcheggiata davanti, c'era la macchina del mio vicino, che mi ha visto con il cofano aperto, mi sto facendo il rabocco del liquido. No, ma io non l'ho mai fatto, in tanti anni non l'ho mai controllato, e a posto siamo, adesso se non l'ho mai controllato il liquido di raffreddamento, ma scherza, no, dice che è il circuito chiuso, sì, ma si consuma, si evapora, no? Beh, insomma, in altre parole, apro il cofano e c'era una vaschetta, quella di plastica, no, che c'è lì nel vano motore, completamente vuota completamente. Io dico che a quello gli ho salvato la guarnizione della testata, o Gianfra, perché era completamente vuota, non c'era un goccio di liquido di raffreddamento, niente. Vai Gianni, cioè vai Gianfranco. Sì, vabbè, tanto su quelle nuove, moderne, c'è la Avisa, c'è tutto il circuito computerizzato che ti dice attenzione ai livelli. Se tu premi il tasto menu, no, ti dà tutti i parametri della macchina, compreso quello della pressione delle gomme, che oramai l'hanno fatto obbligatorio su tutte le vetture, e tanti altri parametri, livello d'olio, livello di temperature normali, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, volevo chiedere a Gianni se era in movimento in macchina. Gianni, sei in macchina? Sì, sono in macchina, ma sono fermo, Gianfra. Sì, adesso si accendono da soli, quando i pneumatici sono sgonfi si accende la spia, l'ha fatto anche a me. E vabbè, adesso è tutto computerizzato, quindi capito, è normale che ci siano queste cose. Perché mi hai fatto questa domanda, Gianfra? No, perché mi sembrava che per un attimo il segnale oscillava, e quello è provocato magari quando passa qualche veicolo vicino, no? Che cambia il diagramma di radiazione. E quindi ho detto, ma forse in macchina.